E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo. Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Diciassette e otto minuti, di nuovo con voi Sebastiano Barisoni. Allora, raccontiamo anche oggi, come sempre facciamo con questo programma, la cronaca della giornata economico-finanziaria, senza patemi, senza drammi, tenendosi forte alle cinture, alle maniglie delle vostre sedie o della cintura delle vostre auto, perché anche oggi è una giornata di passione su tutti i mercati. Devo dire che nell'ultima ora i cali sulle borse sono intorno al 2%, sembrano essersi stabilizzati e quindi si andrà probabilmente a chiudere con un meno 2 su tutte le borse europee. Fa un po' meglio Londra, meno 1,1, e Francoforte meno 1,5, Parigi perde il 2, Milano perde il 2, l'America perde l'1,3%, si è arrivati su altre borse, soprattutto Madrid e Dublino, a cali del 2,5% a Madrid, del 3% a Dublino. Nel caso irlandese, e ne parleremo, tanto ormai lo sapete, il problema sono queste banche che continuano, oggi in borsa sono crollate a dei livelli meno 28%, la Bank of Ireland meno 16%, la Laird Irish Bank, il pozzo senza fine. Ci si buttano dentro soldi e si continua a non capire quanta esposizione ha sta banca. Il modello irlandese, altre volte l'abbiamo discusso, è andato completamente in crisi. Finanza facile, eccesso di leva finanziaria, banche che hanno preso troppi rischi, tutta una fotografia che purtroppo abbiamo già visto nel 2008, dal 2008 in poi. E a questo punto tutta la situazione contagia anche l'euro. L'euro infatti è, allora, l'euro definito impicchiata dalle agenzie è una cosa che secondo me fa un po' ridere, perché è a quota 1,34 sul dollaro. Ora c'è chi dice che il rapporto giusto sia 1,1, se è 1,40 diciamo che l'euro è troppo forte sul dollaro, se è 1,34 le agenzie scrivono impicchiata. Insomma, un po' di equilibrio, è un euro in indebolimento. Perché? Perché un insieme di soggetti stanno speculando, non c'è nessun problema a dirlo, sulle difficoltà dell'area euro, e quindi speculano su un euro in ribasso, speculano su un'Irlanda che avrà difficoltà a mantenere gli impegni presi. La risposta migliore, secondo molti osservatori, potrebbe essere quella già avviata e già effettuata per la Grecia, e cioè garantire a livello europeo, c'è un fondo tra l'altro che proprio la crisi greca contribuì a creare per gli stati che dovessero andare in difficoltà. Però c'è sicuramente un movimento di speculazione, un'ondata di speculazione sull'Irlanda, sulla Spagna. La Spagna oggi, per riuscire a finanziare il suo debito attraverso i bot spagnoli, ha dovuto offrire dei rendimenti del doppio, per cui questa non è una bella notizia, perché più alto è l'intasso interesse che tu devi offrire per farti finanziare il tuo debito, più a rischio sei ritenuto dal mercato, come avviene, lo diciamo ogni volta, anche per i privati. Se vai in banca e ti chiedono alti tassi di interesse per un prestito, vuol dire che sei ritenuto poco affidabile. Di questo parleremo nelle nostre notizie in apertura, e poi soprattutto dalle 18 in poi. Vorrei infatti concentrarmi su un altro tema dalle 17.15 in poi, che riguarda la casa. Oggi due rapporti diversi sull'andamento dei mutui per la casa, durata, costi, è un tema che spesso seguiamo con interesse. E poi anche l'operazione Prismian Draco, non risulta a questo momento nessuna offerta vera e propria cinese, solo un comunicato. Prismian, che è l'ex Pirelli Cavi, ha offerto 1,3 miliardi di euro, metà azioni, metà invece contanti, per acquisire la concorrente olandese Draco. Ne parleremo con il numero uno di Prismian a mercati chiusi. Ancora non mi resta che dare il numero per i vostri sms, 349-238-6666. Allora andiamo a raccontare questa ennesima giornata di passione, tanto ormai ci siamo abituati. In calo il petrolio, prende atto delle difficoltà, 80,5 dollari al barile, in calo l'oro, ma insomma sempre a 1360 dollari l'oncia. Il tutto nel giorno in cui dall'America è arrivata una revisione sulla crescita dell'economia americana migliore delle attese, cioè il PIL americano nel terzo trimestre dovrebbe passare dal 2 al 2,5%, le attese anche più ottimistiche erano del 2,4%. Questo per dire che insomma quando partono questi movimenti i dati macroeconomici vengono abbastanza ignorati. Speriamo, lo dico in maniera molto esplicita, che chi sta speculando su una difficoltà di tenuta dell'area euro si bruci le penne anche questa volta. Lo dico perché anche il dato sui consumi americani è migliore delle attese, più 2,8%, è il dato più alto quanto a crescita dei consumi dei cittadini a stelle e strisce da fine del 2006. Le case, la vendita di case invece è un dato in calo, ma insomma PIL e consumi americani non solo tengono ma vanno anche meglio del previsto. Allora, al di là di Madrid e di Dublino, oggi sotto pressione, da un lato governatore della Banca Centrale Irlandese, Patrick O'Noan, ha detto speriamo che vi siano dei compratori stranieri per le banche irlandesi. Sì, bisogna capire quanto sono disposti a offrire. E l'opposizione ha detto di sì alla finanziaria, una finanziaria enorme, perché insomma vale... sarebbe l'equivalente di una finanziaria da 100 miliardi in Italia, 15 miliardi in Irlanda, questo più o meno sono in proporzione con l'Italia, immaginate una finanziaria da 100 miliardi. Comunque, dicevo, l'opposizione irlandese ha detto sì alla finanziaria anche se modificata in alcuni punti, però poi in qualche modo a contribuire alle tensioni dei mercati ci ha pensato anche la Germania. Perché il cancelliere tedesco Angela Merkel ha definito la situazione dell'euro eccezionalmente seria. L'Irlanda è causa di grande preoccupazione. Ha definito sempre la Merkel positivo il meccanismo di piano di aiuti messo a punto dall'Europa, ma ha detto attenzione, sono necessarie condizioni più dure per la concessione degli aiuti. Ora, al di là della dichiarazione in sé, è chiaro che la speculazione si infila e si insinua là dove vi sono incertezze, e una Germania che tende a parlare con voce sola e non con voce europea lascia campo anche alla speculazione, perché ricordiamo con la Grecia tutta la speculazione si scaricò sul fatto che la Germania non voleva salvare la Grecia, a differenza di altri paesi, non voleva dare aiuti, e scommettendo su questo contrasto europeo e poi gli speculatori ebbero gioco facile. Tra l'altro il piano di aiuti internazionale dell'Irlanda prevede prestiti bilaterali ma che non coinvolgono l'Italia, l'ho riferito a una fonte del Ministero del Tesoro. I mercati sono comunque in tensione perché gli spread, cioè la differenza tra quanto deve offrire l'Irlanda o la Spagna per trovare compratori per il suo debito e quanto deve offrire la Germania, sta aumentando notevolmente. L'Irlanda ormai è al 5,93% come rendimento più alto rispetto a quello tedesco, il Portogallo al 4,27%, la Grecia al 9,39%, l'Italia per fortuna resta all'1,6%. In aumento anche tutti i CDS, quindi le polizze assicurative, che i premi delle polizze assicurative per chi compra debito irlandese o debito spagnolo, il premio di queste polizze sta aumentando perché viene ritenuta un'operazione sempre più a rischio. Il deficit portoghese nel frattempo è salito a quasi 12 miliardi di euro ed è in aumento di 215 milioni. Questo è un segnale non bello perché vuol dire che le misure di austerità varate da Lisbona finora non hanno arrestato l'aumento della spesa pubblica. Su questo è intervenuto oggi anche il Presidente della Repubblica Napolitano, che ha detto la crisi economica internazionale ci impone di ripensare molte cose in Italia e in Europa, anche per come siamo cresciuti finora, spesso al di sopra delle nostre possibilità nei paesi ricchi nel contesto mondiale. E ha detto attenzione, le vie di uscita non potranno essere indolori e non vi saranno sconti per paesi, e il riferimento all'Irlanda era abbastanza chiaro, che hanno conosciuto un'illusoria troppo facile crescita negli scorsi decenni. ma qualcuno se lo ricorda? Tutti gli elogi al modello irlandese, basse tasse, vero, bassissime, economia dinamica, tutta basata sui servizi, sui call center, su banche altamente aggressive, e la stessa cosa anche del modello spagnolo, tutto basato sulla crescita del mercato immobiliare e dei servizi. Insomma, meno male che l'Italia ha ancora una componente di industria manifatturiera elevata, la seconda più importante in Europa dopo la Germania. Vabbè, dell'Expo che a Milano, insomma, ufficialmente il BIE, il Bureau des Expositions, ha approvato il dossier di Milano, abbiamo detto anche nei GR, quindi è ufficiale a questo punto, l'Expo 2015 si terrà a Milano, e il ministro Maroni oggi, parlando a un convegno dell'ANCI dei costruttori lombardi, ha detto non vi saranno infiltrazioni della criminalità organizzata neppure e opereremo perché affinché neppure un euro finisca nelle mani della criminalità. E poi sul federalismo, allora Maroni, dopo aver ricordato che il ministro Tremonti è il miglior ministro dell'Europa e se dice che non ci sono soldi lo fa per evitare il fallimento, il crack dello Stato, è passato ai temi del federalismo. Maroni ha detto in sostanza, la crisi del governo, se ci sarà, non interromperà l'attuazione dei decreti attuativi del federalismo e nemmeno lo faranno le elezioni anticipate. Risposta oggi da parte del governatore del Veneto Luca Zaia invece all'appello lanciato ieri dalla presidente di Confindustria Emma Marcegaglia. Tra l'altro Zaia domani invece illustrerà il conteggio, dovrebbe essere quasi definitivo, di tutti i danni causati in Veneto dall'alluvione. Però sentiamo quello che ha detto ieri da Cernobbio Emma Marcegaglia e poi oggi come ha risposto Luca Zaia. In un paese così diverso come abbiamo noi, con regioni che sono tra le prime in Europa per sviluppo e regioni che sono tra le ultime in termini di sviluppo, io credo che sia importante che chi è pronto possa partire in anticipo rispetto magari a chi non è pronto. Questa regione è certamente pronta, tutti i dati lo dicono, e quindi io penso che qua servono delle risposte che imprenditori e cittadini aspettano velocemente. Mi auguro e spero che si possa magari, chi è pronto possa magari anche partire prima. Allora, così Emma Marcegaglia ieri, oggi ha precisato il tema di cui ho parlato non era di un federalismo a due velocità, ma era l'auspicio che alcune regioni, che magari hanno già dimostrato una capacità di gestione anche a livello autonomo, possano, ad alcune regioni possa essere lasciata più autonomia su alcuni settori fondamentali. Applauso alla proposta della Marcegaglia da parte del presidente della Regione Lombardia Formigoni. E accoglienza positiva anche, come anticipavo, dal presidente o governatore che sia della Regione Veneto, Luca Zaia. Ascoltiamo al microfono la nostra Silva Menetto. Ma il Veneto è partito da solo, nel senso che il Veneto crede molto in questo. Prova ne sia che abbiamo una commissione di saggi che presenterà alla fine una piattaforma negoziale con lo Stato, con il governo, nella fattispecie, per parlare di autonomia, autonomia vera. Materialmente, secondo lei, perché si è fatto il nome della Lombardia e non del Veneto? Bah, perché la Lombardia è comunque un punto di riferimento, non dimentichiamoci, senza avere i complessi di inferiorità, la Lombardia è la prima regione d'Italia per PIL, per numero di imprese, per numero di abitanti. Il Veneto è la seconda e coccola per bene questo secondo posto, anche perché se l'ha sudato fino in fondo. Il Veneto però è la patria del federalismo, che cosa dovrebbe succedere oggettivamente? Il Veneto è molto più identitario dei Lombardi, questo lo si sa, perché ha avuto una Repubblica Veneta che ha avuto vita storica per oltre 1000 anni, è stata la prima democrazia d'Europa e qui l'autonomia si respira, prova ne sia che 7 veneti su 10 parlano e pensano in Veneto. No, autonomia anche dal punto di vista economico, io dicevo. Beh, l'autonomia economica si guadagna se c'è il senso della comunità e se c'è identità in una comunità. Direi che noi abbiamo oggi una certezza, che i veneti sono pronti per l'autonomia e il federalismo, il che significa interpretare fino in fondo i dettami della Costituzione repubblicana. Così Luca Zaia, una precisazione, per carità può sfuggire, ma la Repubblica Veneziana non è stata la prima democrazia d'Europa, Zaia, è stata la prima repubblica al mondo, è un'altra cosa. Per dire, la Gran Bretagna è una democrazia, ma è una monarchia. La Repubblica Serenissima fu una repubblica non democratica, nel senso che non votavano. i cittadini tutti di tutti i sessi, di qualunque censo e classe. Quindi un po' di precisazione su questo, ma non vogliamo risultare tignosi, andiamo avanti. Fincantieri, queste non sono belle notizie, entro metà 2011 saliranno dagli attuali 800 a 2200 i lavoratori della Fincantieri in cassa integrazione. E i dati li ha illustrati oggi il gruppo ai sindacati. Da 800 appunto si passerà a 2200. I cantieri più esposti sono quello di Castellammare di Stabia, quello di Ancona e ciascuno dove lavorano 500 persone. Scusatemi, in ognuno di questi cantieri vi saranno 500 persone in cassa integrazione. E poi il restante sarà distribuito tra i cantieri di Monfalcone, Muggiano, Riva Trigoso e Palermo. Un'ultima notizia che purtroppo riguarda il bollettino della cassa integrazione: si fermeranno anche i 5.000 operai dello stabilimento di Melfi della Fiat, dove si produce appunto Evo. Cassa integrazione ordinaria dal 20 dicembre al 9 gennaio, ed è un Natale pesante per i 5.000 lavoratori di Melfi. Auguri a tutti loro, come a tutti coloro i quali stanno vivendo l'incubo della cassa integrazione o peggio ancora della disoccupazione. Noi adesso però cambiamo tema. 349-238-6666 per i vostri sms. Partiamo subito con il come va il famoso credito al consumo, in particolar modo anche nel mercato della casa e quindi dei mutui. Allora, oggi l'osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia del Territorio ha diffuso alcuni dati. Le compravendite di case in Italia nel terzo trimestre sono calate del 2,5% e quindi si è invertito un segnale di ripresa che andava avanti da inizio 2010. Non frena solo la produzione industriale, frena anche il mercato immobiliare, quindi tutti i settori, dal residenziale meno 2,7% agli uffici meno 3%, e poi dei crolli veri e propri, come sanno molti nostri ascoltatori, per quello che riguarda i negozi, meno 10%, non nei prezzi, nelle compravendite, nel numero di compravendite. E di solito quando cala il numero di compravendite, prima o poi cala anche il prezzo. Però, meno 10% nei negozi e i capannoni industriali, meno 17% come compravendite rispetto a un anno fa, che già non fu un anno di quelli, no? Memorabili. E l'acquisto della casa diventa sempre di più un impegno per la vita, perché lo spiega molto bene oggi il sito mutui.it. Su circa 1 milione di richieste di finanziamento, l'età media per accendere il mutuo sulla prima casa è ormai di 36 anni, quindi in aumento. E la durata media si è allungata a 25 anni, quindi vuol dire che uno già scommette che finirà di pagare il mutuo verso i 60 anni, ecco perché dicono un impegno per la vita. E quindi per riuscire a estinguere il mutuo si superano sempre più spesso i 60 anni, quindi ci si avvicina sempre più dei mutui che verranno estinti con la pensione, con l'età della pensione. Pensate che la durata media del mutuo nelle regioni del nord è aumentata di 10 anni rispetto alla media, è più alta, e si arriva a 35 anni di mutuo medio, che è tantissimo, perché insomma, se parti a 35, lo fai per 35, hai sicuramente l'ottimismo della volontà. La maggior parte dei finanziamenti a rata costante, il 12% del totale su rata costante, scusatemi, il resto sono a tasso variabile, mentre il tasso fisso è comunque molto più preferito al sud, il 54% delle preferenze, mentre nella media nazionale siamo intorno al 47% di preferenze per il mutuo a rata costante. E poi il rapporto sul credito alle famiglie 2010 realizzato e presentato oggi dal gruppo Unicredit. Siamo in collegamento con il responsabile del centro di competenza sul credito al consumo di Unicredit, il dottor Raffaele Cicala, buonasera. Buonasera. Ci dia il titolo intanto, come si muove il credito alle famiglie e come viene utilizzato, perché voi avete fatto anche questa analisi nel rapporto. Sì. Direi che l'obiettivo del rapporto era capire di più come si sta muovendo la domanda, quindi i clienti, se dovessi dire in un titolo, è una domanda più sana, più forte, nel senso che il comportamento dei clienti è stato virtuoso, guardando Cosa hanno fatto? Mediamente le persone che si sono accostate al credito sono tendenzialmente più solide finanziariamente e patrimonialmente, sono persone più educate, quindi in grado di valutare meglio, sono persone che sono più proprietarie di casa, meno dipendenti da un affitto e quindi con un'altra situazione finanziaria più snella. Quindi tutto sommato noi abbiamo cercato di cogliere, guardare, dare un volto a chi si accosta al credito. Queste sono persone molto diverse, segmenti di clientela molto diversi, tendenzialmente rispetto a 2 anni fa più sane e più forti, perché hanno opportunamente e oculatamente fatto delle scelte, diciamo, di prudenza e di cautela. Secondo elemento positivo è che in realtà poi i gruppi più forti, i segmenti di clientela che sono più solidi patrimonialmente, che diciamo possono affrontare ancora progetti, trainare la crescita, sono quelli più sani e continuano a investire e continuano ad accostarsi al credito in modo positivo. Quindi in un quadro sostanzialmente difficile di crescita generale, siamo ottimisti per il fatto che gli italiani, i clienti italiani sono comportati in modo molto virtuoso, contrariamente a quello che si potrebbe pensare e che è successo per esempio in altri mercati. No? Come sì, cioè sappiamo che il nostro è un paese per fortuna di risparmiatori, di persone prudenti, e lo dico senza polemica con voi, ma in generale col sistema, nonostante tutte le specchietti per allodole che il mondo bancario del credito consumo ha messo in atto prima della crisi, perché io ricordo, ripeto, non è rivolta a voi, nel senso specifico, mi ricordo grandi campagne pubblicitarie, insomma ti manca il televisore, prendilo a credito, ti manca il frigorifero, prendilo a credito. Cioè, c'è stata una leggerezza nel settore bancario nell'affrontare i temi del credito consumo che per fortuna non è stata seguita in molti casi dai risparmiatori. Concludiamo questo approfondimento sui dati diffusi oggi dal gruppo Unincredito sull'andamento del credito alle famiglie. Dottor Cicala, vorrei capire come vengono utilizzati questi soldi, al di là del fatto che il 70% dei prestiti richiesti è per ristrutturare la casa, e come cambia a seconda dell'età. Se può anche rispondere però a molti ascoltatori, devo dire che molti sono anche bancari, che dicono: guardate che insomma l'effetto della crisi è stato che si prestano i soldi a chi ha le garanzie e quindi forse neanche meno bisogno, e si è fatto un giro di vite su chi le garanzie non può dare. Le motivazioni vengono scritte un po' così, come pretesti. Allora, assolutamente comincio da quest'ultimo punto, se ne permette. In realtà il valore di questo rapporto è che per la prima volta noi abbiamo cercato di fare una cosa, guardare qual è la domanda, cioè quali sono state le richieste dei clienti e non quello che noi come banche e operatori abbiamo deciso di dire sì o dire di no e quindi abbiamo accettato come credito. Quindi per rispondere a quest'ultima osservazione, è vero, se uno, come tradizionalmente è stato fatto nel passato, guarda semplicemente all'erogato, a chi preso, a chi è stato concesso un finanziamento. Per questo che noi abbiamo fatto con una metodologia nuova un passo indietro, abbiamo preso tutti i dati delle richieste di chi si è affacciato, indipendentemente da che gli si è detto sì o no da parte della banca. Quindi questo offre sicuramente un argomento in più rispetto a quello che nel passato non riuscivamo a vedere. Sulla sua domanda precedente, mi permette, devo farle una correzione, diciamo il 73% noi dicevamo dei prestiti, se prendiamo questa classe, viene utilizzata in modo sano. Perché? Perché un 20% circa viene utilizzato per acquisto di beni durevoli, la gran parte per acquisto di auto e finanziare l'acquisto dell'auto. Una buona parte va a finanziare dei progetti specifici, come può essere la ristrutturazione in casa di una unità della casa. Un 20% viene utilizzato per progetti familiari. Quali sono questi? Ho capito adesso. Sono il matrimonio, il fatto che nasce un figlio, la separazione. E qui due, per esempio, fenomeni che sono dei trend generali. Il primo è che ci sono più divorzi, quindi molte persone che ritornano, si separano, ricominciano a ricostruire una propria vita familiare, un ambiente familiare, e ricorrono al credito per ricostruire le proprie cose. Così come l'invecchiamento della popolazione, ci sono più persone che rimangono vedove e in quel periodo più lungo devono riaffrontare una serie di esigenze molto concrete. Sì, no, ho capito il perimetro della vostra analisi, però magari ne parliamo un'altra volta. Voi avete visto chi chiede credito? E su questo, devo dire che molti suoi colleghi, perché si firmano direttori di banca o comunque impiegati bancari, dicono che in realtà quello che sta avvenendo, che però non era il tema della vostra analisi, se ho ben capito oggi, i prestiti vengono dati solo a persone con reddito alto e con molte garanzie. Chi ne ha bisogno veramente viene rimbalzato, respinto con perdite, ma magari vi torneremo, vi tornerà sicuramente anche Deborah Rosciani la mattina con Savadanaio. Grazie al responsabile del centro di competenza sul credito al consumo di Unicredito, Raffaele Cicala. E adesso la borsa. E che borsa anche oggi. Allora, meno 2,07% Milano, meno 2,5% Parigi, che forse ha qualche esposizione sull'Irlanda in più. Francoforte meno 1,70%, strano l'andamento di Londra, meno 1,40%, perché è così legata all'economia irlandese. L'America perde anch'essa e non male, meno 1,5%, Bruxelles meno 2,2% e poco altro. L'euro è sotto quota 1,34 a 1,3370, ma ripeto, parlare di scivolone, calo, con l'euro 1,33,70 fa ridere, a mio avviso. I titoli come si sono mossi? Beh, insomma, neanche a dirlo, tra i peggiori oggi bancari, ma non in assoluto, perché Italcementi perde di più, meno 4,1, Fiat meno 4,6, Exor meno 3,80%. Poi passiamo alla raffica dei bancari: Intesa San Paolo meno 3,5, Fondiaria meno 3,5, Buzzi Unicem, che non c'entra nulla perché è un costrutto, Facemento meno 3,1, Mediobanca meno 3, Monte dei Paschi meno 3, Unipol meno 2,90, Popolare Milano meno 2,70 e ancora Banco Popolare meno 2,1%, UBI Banca, se riesco a trovarla, appunto meno 1,90%. E infine, tra chi perde tanto oggi, segnalo anche in realtà Prismian meno 2,90, Pirelli meno 2,80%, Impregilo meno 2,70, Ansaldo STS meno 2,60. Chi non ha perso? Bulgari più 1,6, Tenaris più 0,90, Finmeccanica poca roba, meno 0,2%. Livia Zancaner, buonasera. Buonasera. Allora, insomma, che cosa dobbiamo dire? Le tensioni sull'Irlanda saranno oggetto di tutta la seconda ora del programma. Anche la Corea, giustamente dicono gli ascoltatori, il calo di Wall Street in apertura. Ma sei capito perché Wall Street, con due buoni dati sui consumi da un lato e sul PIL dall'altro, ha aperto così male? Sì, allora in realtà gli operatori spiegano che l'andamento negativo è dovuto appunto da una parte alle tensioni per quanto riguarda la Corea, quindi agli scontri armati, e dall'altra parte anche le preoccupazioni sulla tenuta della zona euro, quindi la situazione finanziaria dell'Irlanda e il rischio di contagio ad altri paesi. Bisogna ricordare che oggi il cancelliere tedesco Angela Merkel ha infatti sottolineato che l'attuale situazione nell'eurozona resta straordinariamente grave, e questo ha influito questa volta sui listini americani, che solitamente influiscono l'Europa. È chiaro anche questo ragionamento. Veniamo invece adesso ai titoli. Fiat, il settore costruzioni, mi sembra abbastanza univoca la lettura. Su Fondiaria Sai e Premafin c'è stata la reazione anche all'aumento di capitale che è stato ieri annunciato a mercati chiusi. Sì, infatti i titoli hanno risentito dell'annuncio dell'aumento di capitale, che per quanto riguarda Fonsai sarà di 460 milioni di euro e sarà realizzato nel primo semestre del 2011. Nel gruppo entrerà anche Groupama, che è appunto la società francese che entrerà con una quota di minoranza. E bisogna sottolineare inoltre che dall'annuncio a fine ottobre dell'accordo tra appunto il gruppo francese Groupama e Premafin, Fonsai ha perso quasi il 30% e Premafin il 17%, quindi in realtà è una conferma oggi di un andamento negativo che da giorni e settimane sta coinvolgendo i due titoli. Mi sono dimenticato di Unicredit, avete ragione, meno 2,2%, volete sapere anche di Enel e degli energetici. Enel meno 2,2%, oggi sono più i sommersi che i salvati. Eni meno 2% anch'essa, Telecom meno 1,80, 2A meno 1,70, Autogrill meno 1,60, Estima Electronics meno 1,30, migliori e peggiori in assoluto. Allora, se riesco a aprire la schermata, non ce la faccio, comunque adesso la riprendo, andiamo avanti su altri titoli. Bulgari in realtà oggi ha notizie di mercato perché ha annunciato una partnership in Cina, oltre che il settore del lusso non conosce le crisi. Sì, infatti Bulgari ha beneficiato della notizia relativa alla firma della partnership con una delle più grandi società di vendita di orologi di lusso in Cina. Il titolo ha così guadagnato l'1,64% andando in controtendenza rispetto al mercato, e bisogna sottolineare che Bulgari sta recuperando terreno e segna un guadagno di oltre il 6% in 5 sedute dopo le forti perdite che invece il titolo aveva registrato dopo la pubblicazione dei conti. Mm-hmm. Ecco, sono riuscito ad aprire anche la schermata sui migliori e peggiori. Kerself meno 11,7%, Falk meno 9,90%, Xor privilegio meno 6,80%, vabbè, e poi poco altro. Cobra Automotive meno 6%, Green Vision più 5%, CHL più 3,60%, Unilever più 2,40%, molto difensivi. Fiera Milano più 2%, immagino anche per via libera del BIE, del Bureau Internazionale d'Esposizione all'Expo a Milano. Gemina, c'era un'indiscrezione oggi su Sole 24 Ore su cui insomma lo scalo Singapore già azionista sarebbe pronto a mettere la quota nella società, no? Sì, infatti il titolo ha beneficiato delle indiscrezioni stampa, appunto, secondo cui Changi Airport, che è azionista della società con oltre il 5%, sarebbe pronta ad acquisire la quota del 4% circa in mano alla famiglia Li Gresti tramite Fonsai. E sempre Sole 24 Ore riportava che l'obiettivo dello scalo di Singapore sarebbe quello di arrivare al 15% del capitale, comprando quindi anche altre quote di mercato. Grazie, allegria Livia, allegria. Grazie Livia Zancanelli, Radio Corriere Sole 24 Ore. Allora, dicevamo di Prysmian, di questo tentativo di conquista di un'azienda italiana, di un gruppo, grosso gruppo estero, e del giallo che si è aperto con le dichiarazioni di un altro interessato, un gruppo cinese, e ieri l'oggetto del contendere è il gruppo olandese Draka. Eh sì, perché insomma lo trovate oggi su tutti i giornali, l'italiana Prysmian, che molti ci chiedono ma cos'è Prysmian, è l'ex Pirelli Cavi, per chi se la ricorda, ha lanciato un'offerta per comprare l'omologa olandese Draka. Cosa fa Prysmian? Fa cavi ed altre tecnologie per il trasporto di energie e per le telecomunicazioni. Giro d'affari di 3 miliardi e 7, capitalizza Prysmian 2 miliardi e 2. Questo per dare anche i rapporti di forza, è presente in 39 paesi, 56 gli stabilimenti di Prysmian e 12.000 dipendenti. La preda, se così vogliamo chiamarla, Draka, è un po' più piccola, quasi la metà, forse un terzo quanto a capitalizzazione, ha un giro d'affari di 2 miliardi, ne capitalizza 700 milioni di euro e ha 9.600 addetti, presente in 36 paesi. L'offerta di Prysmian vale 1 miliardo e 300 milioni di euro, 8,6 euro per azione, più insomma 0,65 azioni Prysmian per un valore totale insomma di 17,2 euro d'azione. E fin qui diciamo la notizia di ieri. Che cosa succede? Ieri, poche ore dopo l'annuncio di Prysmian, interviene la cinese Tianjin Xinamao, che rilancia offrendo 20 euro per azione interamente cash, interamente in contanti. E così a riva del fiume c'è anche la francese Nexan, che era pronta a lanciare un'offerta a 15 euro per azione. Insomma, un classico caso di OPA e contro OPA, diremmo, se fosse veramente confermata. In realtà oggi dalla conferenza stampa congiunta di Prysmian e degli olandesi le cose sono cambiate, o perlomeno così ci è sembrato di capire. Ecco perché abbiamo in collegamento il numero uno del gruppo Prysmian, dottor Valerio Battista. Buonasera. Buonasera a tutti. Allora, voi oggi, devo dire, in un comunicato, in una comunicazione congiunta, italiani come Prysmian e olandesi come Draka, avete sostanzialmente negato che vi sia un'offerta cinese, capito bene? Non abbiamo negato, abbiamo detto che per ora si tratta solo di una press release. Un'offerta è una cosa diversa. Cioè un comunicato stampa, un comunicato stampa, esatto. Una dichiarazione di interesse, così, esatto. Data alle agenzie. Per cui a voi, ma neanche a Draka, mi sembra di capire, non risulta un'offerta vera e propria con poi quel livello di 20 euro per azione che diciamo 20,5. Che per diventare un'offerta, quello statement lì dovrà essere perfezionato con tutta una serie di obligation. Che le obligation sono per le obbligazioni e diciamo anche di tipo formale. Di impegni, verso, diciamo formali. Impegni verso la borsa olandese soprattutto. E se eventualmente arrivasse un'offerta a 20,5 euro, voi rilancereste o sarebbe troppo cara? Beh, non riteniamo interessante il deal, l'operazione a quel livello di prezzi. Per cui 17 è un buon prezzo, questo insomma, 17 è già un'ottima valutazione, tenendo in considerazione anche la precedente offerta della francese Nexen, che era 15 euro. Sì, come noi ricordavamo. Domanda, poi veniamo anche al vostro capitale. Perché vi interessa così tanto Draca? Beh, sicuramente Draca è una società che noi conosciamo molto bene, con la quale già un anno fa eravamo stati in odore di fusione. Poi la fusione non si è concretizzata per tutta una serie di motivi e adesso siamo ritornati all'operazione, visto e considerato che la società e l'azionista di maggioranza intende uscire, e a questo punto abbiamo fatto un'offerta parte cash, 50% cassa, 50% azioni. Ecco, in questi casi si parla sempre di sinergie, cioè non va a acquistare una società. Le due società, sia la olandese Draca che la italiana Prysmian, si complementano in modo quasi perfetto, sia a livello geografico sia a livello di business, e ne deriverebbe il più grande gruppo del mondo, sia in termini di dimensioni sia in termini di redditività, nel mondo dei cavi alta tecnologia, dei cavi in generale, sia energia che telecomunicazioni, e quindi riteniamo che grazie anche alle sinergie possibili dalla combinazione di queste due entità, riteniamo che l'operazione abbia un grosso valore per gli azionisti. Su questo vedo già dei messaggi al 349-238-6666, c'è chi teme insomma le sinergie, cioè evitare le sovrapposizioni, efficientare i costi, quant'altro, possono portare degli esuberi. Mi sembra di capire però che lei dice noi siamo presenti in diverse aree, quindi andremo a integrare la copertura, ho capito male? Beh, assolutamente sì, andremo a integrare la copertura, chiaramente andremo a integrare una copertura sia di area geografica ma anche di business. La sovrapposizione è limitata, è chiaro che come da tutte le combinazioni di aziende poi ci potrebbero essere delle efficienze maggiori. Quindi qualche esubero non lo esclude? Beh, non lo posso escludere, chiaramente. Domanda su questo, se ho ben capito, se non dovesse andare in porto l'operazione con Draca, perché i cinesi veramente sono disposti a pagare una cifra che lei definisce non interessante, magari per motivi strategici, voi avete qualche altro obiettivo? Preda non mi piace molto come termine, insomma, qualche altro obiettivo all'orizzonte? Diciamo che il bilancio del gruppo Prysmian è più che solido e pertanto possiamo permetterci anche di guardare ad altre operazioni. Operazioni di più piccola dimensione le abbiamo fatte recentemente, l'anno scorso a dicembre in Russia e a gennaio in India, quindi paesi emergenti, le dimensioni sono nettamente più piccole chiaramente, però sono delle buone basi per una crescita in aree a altissimo tasso di crescita. È evidente che un'operazione come quella Draca è un'operazione di trasformazione della società che è molto più impegnativa, diciamo così, ma anche affascinante, e riteniamo che non ce ne siano tante di quel tipo di disponibili sul mercato. Quindi diciamo di queste dimensioni, con quel tipo di profilo di integrazione, non vedete molto all'orizzonte. Dove li trovate i soldi? Perché l'operazione costa 1.300 milioni. Sì, l'operazione è fondamentalmente basata su un capitale che è pagato 50% in azioni e 50%, quindi aumento di capitale del gruppo Prysmian, e 50% in cassa, facendo leva sulla possibilità del nostro bilancio, le linee di credito e quanto altro già disponibile all'interno del gruppo. Quindi 50% cassa, mi scusi l'ho persa un secondo, e 50% invece in azioni. In azioni. Offerta composta da 8,6 euro, mi sembra, come ha già menzionato lei, sì. Più 0,56. Ecco, 5. Ma per trovare questa cassa vi dovrete indebitare? Cioè aumentare l'esposizione? Aumenteremo chiaramente il livello di indebitamento, perché la cassa l'abbiamo disponibile sulle nostre linee di credito, però cioè, evidentemente sono linee di credito oggi non utilizzate, che noi andremo ad utilizzare proprio per pagare la quota cash, la quota cassa, diciamo, della... Sì. E quindi aumenterete la vostra esposizione nei confronti delle banche? Beh, questo... però aumenteremo anche evidentemente la profittabilità del gruppo, perché includeremo all'interno la profittabilità del gruppo Draca. Stavamo concludendo l'intervista con il numero uno di Prysmian, che ha lanciato un'offerta, vale 1.300 milioni, sull'olandese Draco, chiarito che dalla Cina non è arrivata una controfferta ma un comunicato stampa, e chiarito che il prezzo di 20 sarebbe un prezzo di 20 euro sarebbe un prezzo eccessivo. Vorrei capire, dottor Battista, come mai, secondo lei, la borsa ha reagito così male all'annuncio? Ieri un meno 3, oggi un meno 2,90%. Allora, la borsa, come sempre accade in questi casi, sconta chi deve fare un aumento di capitale o comunque chi si impegna in un deal di acquisizione. In realtà ieri la borsa aveva scontato circa 2% il nostro titolo fino a circa mezzogiorno, poi a mezzogiorno, quando è uscita la novità dei cinesi in diretta, allora la borsa ha reagito male. Sì, non è che oggi sia andata molto meglio, nonostante le rassicurazioni sui cinesi. Ultima domanda, voi siete un gruppo, perché ci chiedono anche gli ascoltatori, ma chi sono gli azionisti? Allora, è la ex Pirelli Cavi, ceduta dal gruppo Pirelli, dentro ci sono sostanzialmente fondi di private equity, fondi pensione, fondi grandi, fondi mondiali, BlackRock, che è il più grande al mondo, ha il 4,7%, Club 3 il 5%, Samana Capital il 2,5%, JP Morgan il 2,1%, Standard Life il 2,1%, Lazard il 2%, e poi Schroeder Investment il 2% e Franklin Templeton il 2%, con la novità che BlackRock, che aveva il 7%, è scesa al 4,70% perché è entrata Franklin Templeton. Questo l'abbiamo saputo da comunicazioni Consob. Come si sta ad avere per azionisti così tanti fondi istituzionali mondiali? Spesso c'è il timore che facciano mordi e fuggi, che siano pochi anni e se ne vadano. Cioè, com'è gestire un gruppo così grosso avendo, diciamo, degli azionisti che sono proprio i classici fondi internazionali di private equity o fondi pensione? Beh, è una classica public company, così come ce ne sono tante, soprattutto in Inghilterra o in Nord America, diciamo nel mercato anglosassone comunque, dove gli azionisti sono azionisti finanziari e non sono né famiglie né grossi gruppi industriali stabili. Gli azionisti chiaramente possono cambiare, però normalmente ho visto che il nostro core degli azionisti si mantiene abbastanza stabile. Se non vado errato, mi sembra i primi 20 azionisti coprono circa il 35-40% del capitale, quindi sono quote abbastanza importanti. Ma il calo della quota di BlackRock a favore di Templeton, come se l'hai spiegato? Ah, BlackRock, così come Fidelity in tempi passati, è salita di quota, poi è scesa, poi sono risaliti, dipende chiaramente dai loro impegni e dalla loro visione dell'asset, certo. Allora, in bocca al lupo, perché noi tifiamo sempre Italia, quando, soprattutto in questo periodo in cui di acquisizioni italiane all'estero se ne vedono pochine, in bocca al lupo nell'offerta che avete fatto su Draca, e grazie a Valerio Battista, amministratore delegato del gruppo Prysmian. Grazie a tutti voi, arrivederci. E allora, ve lo ricordate il nostro rap, il rap dedicato allo scontro Cina e Stati Uniti, in cui si dice fanno finta di essere nemici, ma in realtà sono frenemies, sono amici nemici. Ci accompagna l'ultimo tema di questa puntata, che poi è il tema della giornata, già ne abbiamo parlato in apertura: le tensioni sui mercati, i cali pesanti delle borse, bruciati, come si dice in questo caso, 81 miliardi di euro in Europa, meno 2,5 Parigi, che è la peggiore. Il tutto perché? Il tutto si chiama Irlanda, ma non solo, anche tensioni su altri paesi. La Spagna oggi ha dovuto raddoppiare il tasso di interesse per trovare sottoscrittori del suo debito. Gli ultimi aggiornamenti, gli aiuti stimati all'Irlanda per le banche sono, complessivamente sarebbero 85 miliardi di euro, di cui 35 miliardi da destinare alle banche, in primo luogo la Bank of Ireland, che oggi ha perso il 28% in borsa, e la mitica, il pozzo senza fondo, Allied Irish Bank, che ha perso oggi, tanto per non farsi mancare nulla, un altro 16% in borsa. E ancora, il Fondo Monetario Internazionale, come avete sentito dal nostro GR, dice, insomma, c'è il rischio di un contagio dalla turbolenza dei mercati europei sulla ripresa globale. 85 miliardi sono tanti, però ricordo che la Grecia ne chiese alla fine 130 di miliardi, per cui siamo a 110, scusate se non ricordo male, di miliardi, per cui siamo sempre sotto il livello greco. come sono esposte le banche italiane e le banche europee. Allora, i dati che abbiamo a disposizione su questo ci dicono che le banche più esposte nei confronti dell'Irlanda sono chiaramente quelle britanniche, 148 miliardi, poi la Germania 138, la Francia 50, il Belgio 54, non a caso oggi perde parecchio la borsa belga, l'Italia poca roba, 15 miliardi, l'America 70, la Spagna 16 miliardi, il Giappone 27 miliardi. Allora, torniamo a parlare quindi del tema di apertura, delle tensioni sui mercati, come le vedono le agenzie di rating. Volete sapere però, c'è le agenzie che danno il voto ai vari debiti, come hanno chiuso le altre borse? Beh, Madrid pesante, meno 3%, poi c'è Parigi, meno 2,47%. Insomma, la tensione resta su tutti i mercati, ma soprattutto c'è qualcosa che insomma, non ci convince. Il ragionamento che fanno molti mercati, molti investitori speculatori sui pigs, cioè insomma, i cosiddetti porci, al di là del fatto che la domanda vera è se vi sarà l'effetto domino, se dopo Grecia e Irlanda si arriverà a Portogallo e poi i big fish, i pesci grossi, come si dice in inglese, e cioè Italia e Spagna. Quello che è successo oggi in Irlanda, abbiamo detto, calo di oltre il 2%, le banche in crollo totale, Bank of Ireland meno 22%, Irish Bank meno 18%, questo è la vigilia del piano, lo ricordo chi si fosse messo in ascolto, del piano irlandese da 15 miliardi di euro, che sono tanta roba per l'Irlanda, è come se ne facessimo un piano da 100-150 miliardi, di cui 10 miliardi d'Italia la spesa pubblica. E poi la tassa sulle imprese, che attualmente è al 12,5%, bassissima. L'Irlanda era quasi un paradiso fiscale, e Germania e Francia premono per alzare l'imposta. E ieri però, insomma, l'agenzia di rating Moody's si è detta pronta a declassare, ad abbassare il voto sul debito dell'Irlanda di più punti. Già il 6 ottobre Fitch aveva abbassato il voto, l'altra agenzia di rating, sull'Irlanda. Il 25 agosto era Standard & Poor's. Ma veramente di Irlanda abbiamo parlato in apertura, adesso vorremmo capire quanto si rischi l'effetto domino e che cosa stanno guardando, che cosa stanno osservando le agenzie di rating, che poi, come sappiamo, in questi casi sono quelle che determinano il collasso in alcuni casi, e cioè quando dovessero uscire con dei voti più bassi, drammaticamente più bassi, i mercati ne prenderebbero atto in maniera assolutamente emotiva. Allora, anticipiamole, se riusciamo, con il numero uno di Fitch Italia, una delle tre appunto agenzie che danno i voti ai debiti dei paesi, oltre che dei soggetti privati, dottor Marco Cecchi De Rossi, buonasera. Buonasera. Intanto questo pigs, vedo che alcuni ascoltatori scrivono al 349-238-6666, in inglese pigs vuol dire porci, e già non è bello secondo me chiamare dei paesi, Portogallo, Irlanda, Grecia, Spagna, in questo modo. Alcuni ci mettono anche la I più lunga e ci infilano anche l'Italia, pigs. Ma secondo me è anche un modo un po' offensivo da parte anglosassone di parlare di questi paesi dell'area mediterranea tranne l'Irlanda. Ma è anche sbagliato, vorrei sapere la sua opinione su questo, perché io vedo ancora molte differenze tra Portogallo, Irlanda, Grecia, Spagna, ma magari mi sbaglio. No, secondo noi lei ha ragione, su tutti e due i punti di vista. Innanzitutto respingiamo l'offensiva anche, perché dietro, sotto l'offesa, c'è anche un'offensiva speculativa a chi ha inventato questo acronimo e chi lancia periodicamente queste offensiva, in parte inventandosi rischi che ovviamente sono utili a chi ha certe posizioni. E questo, nel secondo punto, ancora più importante, è la questione della differenza, che sono fondamentali, fra differenti paesi dell'Eurozona e non dell'Eurozona, perché ricordiamoci che questa crisi, nella fase attuale, la crisi che è, diciamo, esplosa nell'ottobre del 2008 con la decisione di lasciar fallire Lehman, e poi si è naturalmente espansa un po' in tutti i paesi, ma soprattutto nei paesi anglosassoni, parte anche in Europa, è una crisi che trova il suo punto di focalizzazione nel sistema bancario. Aggiungo soprattutto anglossassone, cioè americano, inglese. Il bancario che aveva in quei sistemi, in cui i sistemi bancari, mi scusi il bisticcio, avevano una focalizzazione di un certo tipo, ma in particolare molto aperta a rischi sul settore immobiliare, sia diretti che indiretti. Da qui la sofferenza che hanno avuto le banche nel Regno Unito, in certi paesi anche del continente, penso al Belgio, alcune banche tedesche, alcune banche spagnole, ma le più piccole, che peraltro sono in ristrutturazione, per non parlare di quelle degli Stati Uniti. Allora, io direi una cosa, sintetizzo, questa crisi è nata perché le banche d'affari anglosassone, ma non solo, si erano messe a prestare, a diciamo, eliminare ogni senso del rischio, a prestare soldi per i mutui a persone che mai li avrebbero potuti ripagare, anche perché spesso non erano nemmeno possessori di uno stipendio adeguato, tanto impacchettavano il rischio, questo l'abbiamo spiegato molte volte, lo rivendevano sul mercato e a quel punto no, non era più tuo. Questo bel giochetto che ha creato la crisi finanziaria e poi economica, adesso anche occupazionale più grande degli ultimi 50 anni, l'hanno creato i geni della finanza americana, britannica, anche se vogliamo in Europa, Parigi, Francoforte, qualcuno a Milano, ma insomma la matrice è quella, parlavano inglese questi soggetti. Che sono in alcuni casi gli stessi che stanno adesso scommettendo, abbiamo visto le dichiarazioni oggi della Merkel, di Schäuble, sulla indebolimento se non addirittura distruzione dell'euro, e quando lei dice dipende dalle posizioni che uno ha, è chiaro che se tu come banca hai scommesso che andranno giù le banche europee o che l'euro andrà in difficoltà, sei lì che spingi a dire in tutti i modi possibili, anche con interviste con la stampa anglosassone, sempre così dura con noi e così buona con se stessa, direi attenzione, questi sono i pigs, i porci. Io dico, se questi sono i porci, come dobbiamo chiamare chi ha creato questo meccanismo, chi si è fatto salvare in America da qualcosa come, per ora stimati solo di aiuti statali, 1.800 miliardi di dollari, che hanno creato il deficit americano al 14%, che stanno creando il dollaro più basso degli ultimi mesi, e per non parlare dell'Inghilterra che alcune banche ha dovute salvare veramente. Detto ciò, vorrei capire quanto alto è il rischio che l'effetto Grecia, ormai si sta propagando l'effetto Irlanda, anche se sono casi specifici, ma che diventi un effetto domino, che è cosa che mi preoccupa di più, perché finché parliamo di Grecia e Irlanda parliamo di due stati che valgono come un paio di regioni italiane o tedesche o francesi. Ma guardi, il rischio, in linea di principio, il rischio di contagio c'è sempre, perché tutti i sistemi finanziari, tutti gli emittenti si reggono e possono, diciamo, svolgere l'attività o piazzare le loro emissioni se c'è la fiducia dal lato degli investitori. Quindi questo scremandolo dalle posizioni interessate di tipo speculativo. Detto ciò, ci sono nell'Eurozona, come fuori dell'Eurozona, delle situazioni assolutamente diverse per profilo di rischio. Si va in termini di rating dalle doppie A fino alle triple B meno, per rimanere solo nell'Eurozona. E ricordo che appunto per noi la Spagna è una doppia A più con outlook con prospettive stabili, l'Italia una doppia A meno con prospettive stabili, il Portogallo è una doppia A meno invece con prospettive negative, la Grecia una tripla B meno con prospettive negative. Quindi, come vede, anche se si tratta di emittenti di stazza completamente diversa, i profili di rischio sono diversi e quindi anche i premi per il rischio che si pagano. E diverse sono le politiche fiscali in corso in questi paesi per far fronte alle diverse situazioni che appunto nei singoli paesi vengono vissute. Mi sono dimenticato l'Irlanda, ma per completezza, l'Irlanda è attualmente come sovereign, come paese sovrano, emittente sovrano, un rating a più, con prospettive negative. Allora, per far capire a tutti, il voto sul debito del Portogallo è uguale a quello dell'Italia? Solo no, che... il Portogallo sì è uguale a quello dell'Italia, ma il Portogallo ha prospettive negative mentre noi abbiamo prospettive stabili. Prospettive stabili le ha anche la Spagna, prospettive negative, che è quello che mi interessa di più, le hanno l'Irlanda, appunto il Portogallo, la Grecia, lasciamola stare per un attimo. Sì. Ho visto però che oggi la Spagna, dottor Cecchi De Rossi, nel collocare delle obbligazioni, dei bot, ha dovuto offrire, per farsi pagare il debito, ha dovuto raddoppiare il tasso di interesse, che non è una bella notizia, su questo le chiedo, lei quanto teme che si possa espandere come un effetto domino, e se veramente chi dice, e oggi appunto Schäuble non ha dato una mano, ma neanche la Merkel,